Le ragioni sono riprendere un po' da dove abbiamo lasciato, nel senso che per quanto noi siamo rimasti sempre attivi in qualche modo, ci siamo lasciati con la cosiddetta mobilitazione del Mattei, e però un po' nell'estate tutto è sembrato che si fermasse tutto subito, e quindi l'idea è un po' quella di riaprire la discussione in città, riaccendere i riflettori su questa situazione, insomma, dell'accoglienza, e anche richiamare chi di dovere, insomma, riprendere le proprie responsabilità, quindi fare un po' il punto e cercare di capire le prossime tappe, insomma. Certo, ecco, tu hai citato il Mattei, uno degli elementi, insomma, che sono ancora in ballo, che riguarda il destino, appunto, dei lavoratori e delle lavoratrici. Dopo la mobilitazione dello scorso giugno c'erano stati anche dei tavoli presso la città metropolitana, si era parlato della ricollocazione delle persone che lavoravano al Mattei, chiuso, ricordiamo, improvvisamente dalla prefettura. E qual è stato il destino di queste persone? Sono state ricollocate? Cos'è successo? Ma guarda, questa per esempio è una bella domanda da fare, nel senso che non è stato molto chiaro cosa sia successo, perché quello che abbiamo visto noi è che poi alla fine le cooperative si sono un po', come dire, arrangiate, provando a fare proposte alternative, insomma, a chi stava perdendo il posto di lavoro, però in quel tavolo invece sia le cooperative che la regione, che poi l'amministrazione comunale in primis, si era preso l'impegno di monitorare questa situazione e quindi di fare, come dire, un piano appunto organico di ricollocamento. Si era parlato anche di riqualificazioni, e in realtà questo monitoraggio, questa tutela, noi non l'abbiamo vista, perché dopo i primi due incontri, mi sembra, a questo tavolo nessuno ci ha più riconvocato, nessuno ci ha più ridetto niente, quindi abbiamo paura che sia stata un momento in cui nell'emergenza e con l'attenzione dei media si è voluto un po' fare una bella, come dire, figura, dopodiché siamo un po' rimasti appesi. Tanti lavoratori comunque si sono rapportati con le cooperative rimanendo totalmente da soli, e allo stato attuale, sono sincera, non siamo informatissimi su tutti i ricollocamenti o i licenziamenti o quello che sia stato, quindi anche l'assemblea di mercoledì probabilmente sarà anche un momento per riaggiornarci su tutto questo, tanto più che noi già appunto in estate avevamo detto, e comunque eravamo tutti d'accordo a quel tavolo, sul fatto che la situazione comunque non si chiudeva con il Mattei, nel senso che anzi si stava aprendo una situazione molto preoccupante, occupazionale, perché adesso scadono i bandi a ottobre, poi ci sarà anche lo SPRAR, che con la fine della progettualità di dicembre diventerà SIPROIMI, e quindi vedremo anche lì cosa accadrà. Cioè la situazione non riguarda solo quei lavoratori del Mattei, e nonostante questo piano che doveva essere organico e comunque condiviso, noi non l'abbiamo visto. Certo, ecco, appunto, hai fatto bene a ricordare la scadenza dei bandi, dei contratti, insomma, per i CAS, però ti vorrei fare una domanda specifica, appunto, tu l'hai citato sul destino degli SPRAR, quali saranno i cambiamenti in questo SIPROIMI? Vedremo, perché sicuramente c'è stato un cambio di rotta con il decreto sicurezza, quindi sicuramente la cosa più, insomma, fondamentale è che questo tipo di accoglienza, che era quella un po' che garantiva una serie di servizi, riguarderà pochissime persone, molte meno rispetto a prima, perché non viene garantita per esempio per i richiedenti asilo, ma solo per chi è titolare di protezione, oltre al fatto che poi sono stati anche dei cambiamenti rispetto alle protezioni, quindi sicuramente meno persone avranno vedranno riconosciuta una protezione, diciamo, come adesso, e quindi comunque meno persone, forse meno servizi, non lo so, vedremo, si entra un po' nel tecnico, però sicuramente non è una buona prospettiva, perché più che altro si torna quasi indietro, cioè la sensazione è che si torni indietro, invece che garantire un'accoglienza a più persone possibile di qualità con tutti i servizi, insomma, di nuovo si va in una situazione un po' da giungla, lasciando per strada tantissime persone. E non lo so, vedremo. Ecco, una domanda più generale, poi chiudo. La sensazione anche col nuovo governo è che comunque si stia operando una sorta di smantellamento dell'accoglienza? Sì, infatti, appunto, la sensazione è proprio questa, che non si stia andando avanti, ma che non ci sia nessuna volontà politica di affrontare il tema poi per quello che è, cioè la tutela delle persone e della dignità delle persone per quanto riguarda sia i migranti che i lavoratori. Dici bene, è uno smantellamento e non si capisce perché si debba tornare, come dire, all'emergenza, tanto più che questo parlare sempre di numeri solamente, no? Che sia le persone che diventano numeri, che siano siano i soldi, si parla solo dei soldi, fa veramente paura, nel senso che noi invece vogliamo parlare delle persone, della dignità delle persone, delle vite delle persone, tanto più, ci tengo a dirlo, con lavoratori sfruttati, stressati, sempre sul filo del rasoio, non esiste neppure, non può mai esistere un'accoglienza di qualità, quindi le cose sono strettamente legate. Sicuramente non ci sono dei buoni segnali, ma insomma ci mobiliteremo, rimarremo attenti e cercheremo di vedere e poi muoverci di conseguenza, insomma non ci arrendiamo, ecco, non subito.